Che stai facendo, c'è? Oh, sto chiedendo una porta in alluminio qua. Tu compra e vendo. L'altezza e la larghezza. Ma Cristo, col telaio 89 sarà la larghezza. Barra 211 altezza. Ma ti serve? E una per metterla dietro dove c'è la finestra nel terrazzo. Ah, ho capito. Questa la sto dando 100 euro, è bianca, c'è il pannello sotto e il vetro sopra. E ha un'anta. Però bisogna vedere che larghezza, e la larghezza è quella che mi ha scritto, 89. Vedi un po', che chiedo. Sto aspettando la risposta. Larghezza 80, allora. Larghezza e altezza, larghezza 89. Ed è qui, con telaio 89, barra 211 sarà l'altezza. E quanto in soldi? 100 euro. Ma ti serve a te? E beh, se va bene, per dietro mi servisse. Ho capito. E dove c'è la vetrata lì? Io avevo fatto fare la finestra, però me ne sono pentito dopo, perché ho lasciato il muretto. E tutti i dolci devo pulire la scaletta e brincare il muretto. Pure ho messo una pedana, però un giramento di palle. Tu che voglio levarne la finestra che c'è, spostarla al fianco. E mettere una porta a finestra lì. O se no a quella. Chiamare quello che fa gli infissi lì a Fredanetta, se mi faccio una buchetta e il telaio nuovo e recupero la finestra questa. Capito? Lui! Ho capito. Cosa dici che mi conviene farmi fare la buchetta, un pezzo di imbasso? Se risparmi sì. Vedi tu, a risparmi? Non lo so, perché dovrebbe venire e portarsi la finestra, farmi il telaio con la buchetta di sotto e a finestra mette questa, capito? Hai capito come mette la buchetta? Chi dà che abbia preso il ruaco nella la buchetta abbassata, o se no abbassa il bassantino e apri tutto il ruaco. Sì, ho capito qual è. Ma cos'hai il portatilino dentro il caricatore? No, perché? Ma sentivo ogni tanto un'alternata. Ma forse l'avevo premuto male. No, ho capito. Ti andavi, prendi la risorsa, e chi sta ancora? E Altezza mi ha mandato 2011. Le misure sono compreso il telaio. Aspetta, che lo rispondo. Sì, grazie, sono qua. Fai. Grazie. Ehi, io... E che faccio? No, gli ho detto che è 89, c'è un metro di apertura, più di un metro è da. E cosa posso, una mazzetta di lungo, non mi conviene. Non mi conviene, c'è lui. E poi cosa ne so, lì è un filaretto di muffa, di una mazzetta. No, non conviene. Ho detto, mi dispiace, no. C'ho un metro io di luce, e col telaio così. Cioè un metro è l'apertura, mi dico, delle due ante della finestra. Dunque è più largo lì, capito? Perché appoggia il telaio della finestra che c'era prima, del vetro, capito? E poi sotto c'è il muro. Ho capito. Allora fatti la porticina come stavi dicendo. mi conviene, ma adesso no, a tempo buono. L'unico aviso che fate difficile da prendere, avviene, se si la boccia, l'acqua che viene attaccato col telaio e mi fa il telaio nuovo, mi mette quella finestra e la buchetta, così se voglio aprire solo la finestra, apro la finestra e la una buchetta baciata. Se poi voglio aprire tutta la finestra, abbasso il fiolino che c'è il passantino e apro la finestra, la porta finestra tutta qua. Ma chissà, e poi boh, mi pare che chissà apri a sinistra, boh, io la voglio che apra a parte in dentro, capi? Sì. Beh, come conviene, cioè come ti sta meglio a te? Vedi un po' la spesa, quanto è? È a due ante, chissà gli anni da un ante a giù. No, non va bene, c'ho il fossetto lì, perché per forza aprire dentro deve la porta, aprire fuori non andava. Cioè andava però non mi piace aprire fuori, è meglio che abbia dentro come la finestra. Insomma, praticamente devi farmi due buchetti sotto quando lo va fuori, col telaio unico, diciamo, va, di quella larghezza, perché io non butto quel murettino della misura che voglio, perché ci devo lasciare un gradino lì, e niente, no, me la posso fare, non mi conviene. Se non ti conviene così, no, vedi un po' quello che riesci a fare. No, non ne voglio fare i muretti, io ne butto quel pezzettino dal muretto, mi pare ne devo buttare tra il marmo e il coso, un 60 centimetri, 70, va? E già andava. Ci metto il marmetto e poi ci ha visto la porta finestra, la chiamiamo la porta finestra. C'è Mr. B a Italia 1, poi ho fatto di capo. Oh, no, mi sto guardando K-Aventura al televisore, mi inizia a davare. Si vedono montagne, uno scalatore, una curva, il lago c'è. Cioè. Si sono levate delle pulenti. Ah, vino. Sì. E così, e cosa vuoi fare? Ma... non sente giù nessuno, no? Tutti dormiti su. Però, ma con Gio Maria sentisci? Oh, Gio Maria sarà su ragazzo. Sì, se vado a dire. Ma fallo diventare addosso, il bovino ha posto lo zucchero, beh, l'ha detto. Sì, per carità. Così, Tore non si è sentito lo stesso, sarà su Raghenni. Ma domani dove sei? No, a casa, non ando in brucchi da nessun lupo, non saranno. Beh, compare. Non siamo a casa, ma andiamo e ti cucchiamo, lasci una brucchi. No, lì qua deve venire mia cognata che è rientrata da Londra, ieri sera è rientrata in aereo, che è salita su una settimana dalle figlie, le ha portato un po' di roba nostra, da qua, è rimasta una settimana insieme alla figlia piccola e ieri sera sono rientrati in aereo, gli ha fatto veloce. Ah, ma tua moglie anche? No, mia moglie no, mia cognata, la sorella mia moglie, è andata a Londra perché c'ha tutte e due figlie che lavorano lì e sono fidanzati lì, cioè, i ragazzi lavorano lo stesso lì e c'hanno una a casa, gli paga l'affitto e una c'ha un'altra a casa perché se le hanno buscate vicino ai posti di lavoro, gli appartamenti, capi? Ah, sì. Ha già capito, vabbè, quanti ore ci ha messo? Non gliel'ho chiesto, Ah, tu giusti chissà, allora, sì, quando l'ho chiamata io era, che ora era? La una e mezzo, e mi ha detto mia nipote che stavano arrivando all'aeroporto, poi che sia partito a 2:30, 3 manco un quarto. Alle 5:30 ho chiamato e mi ha detto se stiamo arrivando all'aeroporto. Via dal ghetto? No, da Persiglia, perché aveva fatto... E al ghetto, Persiglia, all'aeroporto di qua. Perché il biglietto l'aveva già fatto, andata e ritorno, già prenotato un paio di mesi fa. Ho capito. Io non l'ho mai pigliato aereo, mai. No, in aereo io non mi sono cazzato. In elicottero sì, a prendere il buco, quando ero militare. Manco io, in elicottero non mi manco. Sarà bello, Già è bello, ma... mi pare la sepusa di una moto a carrozzella di 20, 30, un casino faceva, un rumoraccio, l'elicottero, l'aereo penso che sia la matta e si gusta. Mi a Falcone, mi. Ehi, ciao, ciucucciù. Ma mi migliora chi ca, lo prende spesso l'aereo, perché va pure a giocare. È un bel voce, sembrava una moto zappa, ma quell'aereo che abbiamo preso a ritornare. Figurati! Schietta, moto zappa. Ehi, dai rumore che facevano, tutto sgangherato. Sì, sarà da che ferroveccio. Ehi, c'è nani mio, roba vecchia, non ti credi che siano tutti belli, lucidi, come ti rivedono il televisore, no? Quindi sono all'interno, che sono praticamente come il pullman di qua e tra. Quando entri, ghiacci, sempre che malazzurti di bingo, vedi. Non so, non ci sono mai salito, non te lo so dire. Comunque basta che forse nei dinani a putti assai, dice, per bingo, ho fatto dei rumori. Interessante di farti. Perché facciamo soldi, grazie. Capito? Perché non te lo fai qualche viaggio, qualche giorno, tu con Maria? Ci sono, quando mettono le offerte, ti fai un giro a Roma, anche in giornata. Prenoti il biglietto, quando ci sono le offerte, che ci paga una cazzata. E ti fai un giro, dato un approvallo, no? Perfetto, io non ci sono mai salito, non lo so, non so la mia reazione. Andami in cugnata che è una caga sotto e lo andi giù. Immaginando, chi dà una caga sotto? Chi mi pizza la bocca e alza in aereo. Dunque se alza in aereo ci puoi andare tranquillo. Ma poi mi piace, mi piace tutto che ci puoi per l'aereo. E allora che fate così? Chi che oramai manco barriberò, non ha problemi, io non ripari vero. Al prossimo anno, se ci riesco, ci vado io con Paoletta a Londra, da minibus. Vabbè, un paio d'ore, tu c'hai problemi per l'ossigeno. Non lo posso portare appresso. C'è tutto nell'aereo, c'è anche l'attacco per l'ossigeno, c'hanno tutto. Luca, mi senti? Cambio? Giuseppe, ti ascolto, tu mi ascolti. Oh, ciao, lo stavo impazzendo con la radio, ero mezz'ora che vi facevo chiamata ma non riuscivo a uscire. Adesso ti ascolto forte e chiasso, avanti, grazie. Ehi, a chi è che non l'ho sentito? Ciao, grazie a Giuseppe da questa parte, non so se riesce a sentirmi adesso. Sì, chiaro e forte, ciao Giuseppe, ben sentito e buone feste. Sono con il portatile. Ciao, grazie altrettanto a te in famiglia. E niente, ho acceso poco fa il portatile, brecco, cambio, prendo, scambio e coso, nulla. Ho preso l'altro portatile e con ragione non mi sentivate, perché non stavo uscendo. E come mai? Non lo so, ho fatto un paio di passaggi, sono andato in un'altra frequenza e con l'altro mio portatile e uscivo. Adesso ho riprovato e via, ed è partito. Forse, non lo so, ti dico la verità, non so cosa palla gli abbia preso. Magari è il PTT un po' difettoso, non lo so Giuseppe. E allora, come va? Ma, tiriamo avanti Milu, piano piano. E si tira innanzi. E voi? Tutto a posto, Lu? Come si dice? Tutto a posto e niente in ordine, Giuseppe. Tutto a posto e niente in ordine. E facciamolo andare come vuole, tanto. Noi non possiamo fare niente. Non possiamo fare niente. Domani a casa, chi se ne frega, mangiamo e poi si cucchiamo. No, oggi vi fa feste e festiccioli io. Tutti, Luca, riprendo dopo, riprendetevela. Kappa, ciao, grazie. E noi lo stesso, Lu, noi domani a casa, si mangia quello che c'è e tira avanti lo stesso. Noi a Natale eravamo con qualche amico, adesso a Capodanno hanno organizzato chi dai cognati, chi da cosa, noi qui a casa tranquilli e pacifici. Cosa vuoi fare? Devo andare lì, l'indomani andiamo a farci un giro, mi vediamo il tempo, secondo com'è, chi se ne frega, lui, oggi sta in Chivia, matta la Mluze Bedu, e fai questo e quello, l'hanno organizzata comunque un cenone, intorno ai 30, quanto era Mari, 30? 38 euro a testa, ma non è per quello, non... Deve stare lì a mangiare a forza, mangio visto che mi biasi in casa, tanto non mangio molto, perché poi se sei troppo pesante di stomaco ti viene male a dormire. Non me ne frega, ma mangio visto che mangio verdura di sicuro, frutta lo stesso, mangio un paio di gamberi e qualche, non so, vediamo, ma non più di tanto Giuseppe, del resto non mi interessa, un bicchierusso di spumante, Lo stesso faccio io. Io ai cenoni lo stesso, cioè io, noi ai cenoni, perché non andiamo? A chi devi mangiare, devi mangiare. Ma io non sono abituato, Lu. Io mangio normalmente, e se possibile tutti i giorni, perché ricordiamoci che è Natale tutti i giorni, quando hai nel piatto c'è la cosa da mangiare, Natale tutti i giorni. Non c'è bisogno di fare come fanno molti, gatte, a messa a mira, gatte, poi a star male, a mangiare, ad abbuffarti, io non ci riesco. No, ma infatti, lo puoi fare a pranzo, va bene, ma di notte, a cena, A me piace mangiare, però purtroppo c'è quella una regolata, no? Cioè, poi, sai cos'è Giuseppe, che vai in questi comuni a bere, se quindi gli altri bevendo, vabbè non sei obbligato, però visto che siamo in festa, è l'ultimo giorno dell'anno, ti puoi bere, ma poi a me non c'è cosa che mi piace, sono sincero. No, io ho Lu, ai cenoni già posso andare. Aspetta, Cat, ma ne va tu? Mi hanno fatto sospendere per dirmi una di quelle freddure, guarda, più grandi di me. Cioè? Adesso mia moglie mi ha chiamato, no? Dice no, fermo un attimo, ti vuole Veronica, dimmi. E mi ha detto, sarà terribile, dice, lo sai perché al cane gli sta antipatica la coda? Ho detto no, perché? Perché gli sta sul culo. Cesso. vabbè, dai. Una battutina un po' freddina, ma comunque già va bene, dai, sempre una bambina. Mari, se va su internet, sai quanti ce n'è? Voi mi devo ricordare di fargli un gavettone dopo. Acqua calda però, mi raccomando. Luca, calda, mamma mia. E ti stavo dicendo, io e cenoni posso andarci, sì. Io e cenoni potrei andare tranquillamente, tanto non bevo. Ma non bevo Giuseppe? Negativo, acqua, magari me. Se devo fare qualche stravizio, uno o due bicchieri di Coca-Cola per farmi digerire, poi per il resto, cin cinne. Oh, e allora sai che Antonio ha già regato a casa, Ollu? Ah, pensavo che qualche vino lo trovavi ogni tanto. Nulla, nulla, nulla, nulla, né vino, né spumante, né liquori, né birra. Birra una volta ci ho provato, cazzo, che è stato una settimana grattandomi. Mi fa tutto a puntini, picchi nelle mani, nelle braccia. Cazzo, un giorno eravamo al mare. Mi chiamano, vieni ti bevi un bicchiere di birra. Ma mia moglie fa, almeno sta in compagnia. Cazzo, la notte che ho passato. Mamma mia, come sto. Ma c'è un periodo che qualche vino lo trovo bevi, Giuseppe, no? Sì. Boh, che mi ricordi io, vino... non mi ricordo. Magari tanto, tanto tempo fa, a Natale, quando scendeva mio cognato, che lui lo beve. Ma... un dito proprio per fare il fondo del bicchiere. Ah, ecco, vabbè, io non è che sono, non bevo più di tanto, ma quasi, fai che mangio, perché mangio prima, ma anche prima, vai, qualche bicchierotto di birra, poi vado a mangiare, fai in tutta una bottiglia e mezzo, quando me la bevo? Ma mi sa che prendo anche una decisione, perché la patente mi serve. Lu, su quelle cose non c'è da scherzare, però io dico sempre questo. Io ho visto gente bere, ma bere, poi ti ricordi quando facevo servizio d'ambulanza? Minna giubilio mi di gente cotta, gente che poi oltretutto è anche stupida, perché se devi bere, bere è come mangiare, è un piacere. Arrivi a quel punto, ma te ne puoi bere anche mezzo litro, però devi star bene. Ma non è che devi bere per poi star male, o sto sbagliando? No, cosa bevi a farti male, no? Bevi giusto. Vai poco a poco allegretto, così va bene, no? A bocca a terra, non è cosa ne hai, niente. Nulla, perché poi stai male, Lu, quello non è divertimento, quello è star male, poi magari l'indomani ti svegli che stai male, e come no, pucci, di chi se non ne voglio più, di chi se non ne tocco più, sino alla prossima volta. Invece uno, io parlo per esperienza, anche per sentito dire, uno deve bere come il mangiare, attenzione, deve bere moderatamente per star bene, allegretto, tranquillo, due risate, due cose, anche se c'è un bicchiere in più non succede niente. Ma infatti, no, ma comunque, tornando al discorso, io so che hanno sequestrato un bel po' di patenti, basta che un bicchiere di troppo sei infuttito, no, non voglio arrivare a quello, non mi interessa. Lo faccio, lo bevo quando sono in zona, che devo rimanere a casa, che sono a piedi, là sì, ma senza embriagarmi, un bicchiere magari, sai, fai che te ne bevi una bottiglia, perché se te ne bevi due bicchieri di birra sei fregato, la patente te la prendono. Vabbè Giuseppe, uscito sono. Grazie. Sì. Beh Luca! Stavo parlando, ma certo non lo sento più. E adesso mi senti Lu? E me lo mi sentivi? Sì che ti sentivo, eri tu che non sentivi a me. Non so cosa sta succedendo. Perché quando schiaccio il PTT, da 4,46 se ne sale a 4,51 e non riesco a capire il perché. Metti il blocco, il lucchetto, non si sposta. Cappa, adesso ci provo. Capito Giuseppe? Sì, adesso ci provo, però non è che si sposta nell'altra frequenza, si sposta nella frequenza sua, nella stessa riga. Basta mettere il lucchetto, non si sposta. Come mi senti Lu? Ehi, va bene. Ehi, vabbè, dopo lo controllo, dai. Perché adesso ho messo il lucchetto ed è salita a 4,51 di nuovo, qualche malasorte c'è. E che apparato è Giuseppe? È sempre quello che uso per servizio, il Baofeng. Beppe, bene mi senti con questo? Vieni avanti, Grazia. Guarda, mi senti meglio. Grazia, vieni avanti. Ehi, mi senti? Luca, non mi senti? Adesso sei uscito, Grazia, poco fa no, lo senti bene, Lu. Come sente, Luca? Grazia, lo senti? No, non lo sento. Chi è avanti? Ehi, Luca, tu mi senti? Adesso. Certo, sente con Giuseppe adesso, non è lui che sono sullo basso. Ah, ciao Giulio, passo a passo, sì. Sei di fronte a me praticamente. Ma lui, quando me la chiama, chiesto se lo sentiva, lui ha risposto, io l'ho sentito. Però era bassissimo, e per quello che magari Graziano non l'ha sentito. Ehi, aia, aia. Lo senti, Giuseppe, Giulio? Sì, lo sento basso, basso, basso, basso. Adesso lo senta Giuseppe, poco fa non lo sentivo, mi senti Giuseppe? Forte e chiaro, grazie. A momenti sparisci però. Adesso mi stacco un attimino e me la controllo questa radio. Giulio, guarda che stai uscendo basso. Giulio, è troppo basso. Occhio a chi ce l'hai. Prova adesso, poco fa eri basso, prova. E provo a aumentarti il volume, a vedere. 1, 2, 3, 10, 30, 40, 50. Adesso vai bene, sì, a Giuseppe lo senti. Adesso si è assentato che ci controlla quella radio. Sì, l'ho sentito poco fa, ma adesso non lo sento più. Per cui va bene così. Luca, riprendi. Ta ta ta ta ta. Ma stai usando... l'hai cambiata la radio? Mi senti più forte, meglio? No, però è più chiara, comunque c'è forte, dai. Ho messo questa a vedere. Quando stai col portatile, sposta a sforza. Se no Giuseppe lo sentivo a tratti, poco qua, col portatile. Con questo lo sento bene. Ti credo. A Giulio lo sento meglio. Con questo qua. Riprendi Giulio! Riprendo Graziano, ma rimango in ascolto, dai! Ti saluto, ciao Graziano, Luca e anche questo Giuseppe che non conosco. Saluti anche a lui, ci sentiamo, rimango in ascolto, dai! Sto facendo cosa? Ehi! Ok, siamo qua! Vai Luca! Ciao Giulio, dai, più tardi! Troppo me ne vado a casa io, grazie. Sei atta col baracchino, se no niente. Ti ci deve salire a casa tua stasera. E io? Senta, oggi che è domenica te ne vai a casa tua, e là c'è la Marina sola sola. Io non è sola. Ho detto che non è sola. Sì, vabbè. Eia, vabbè, devi salire da mamma tua, l'insulina li devi fare. Eia, aspetta un attimino, devo fare una cosa al portatile, aspetta. Ehi, ma comare di un esercitato da Ruretto. Dromme poco già, tu e Rughino non fai nulla. È vero. Ehi, beh, flippero. Di Maria! Che c'è? C'è non sì! Ma domani, grazie, cosa c'è? Roba da buona da mangiare? Domani? Allora, come menù, progetto, prospetto c'è, maialetto, medu, denaro, gamberoni, verdure, poi aspetta, mi sembra quegli occhietti tutti colorati, verdi, arancione, quelli col suo ragù, ai piedini d'agnello, e poi cosa c'è? I carciofi, e poi cosa c'è? E poi già ce n'è altra roba, salsiccia, formaggio, come antipasti, cipolline, olive, funghi, i funghi, ci sono le antunne anche con sottaccetti, funghi. Io invece ho buccia di cozze, cozze di formaggio, piedini d'anguilla fatti a cose, impanati e fritti. Le cose le ho mangiate a pranzo, una decina me ne ho mangiato. Ne ho mangiato, primo non ho fatto, la trippa e fagioli che mi era rimasta da ieri sera e le cozze. Brecco brecco. Va, Giuseppe, avanti. Avanti brecco brecco. Ah, mi avete detto. Buonasera, sono di nuovo io, Graziano. Effettuato registrazioni d'emergenza e adesso vedo che il canale non va più su. Dimmi come va. Adesso sta facendo bene, bene, bene, non si è mancato niente. Confermi, Luca? Sì, a posto, confermo. Grazie ragazzi, a proposito di mangiare, fettini alla pizzaiola da ieri e ci passano stasera. Adesso questo passaggio, Giuseppe, si è mancato un po'. Vediamo un po' adesso, dicevo fettini alla pizzaiola stanotte da questa parte, K. Sono buone, già mi piacciono anche a me le fettine alla pizzaiola. Io ci metto i capi in mezzo, K, mi hai tolto la parola di bocca. Stavo aggiungendo con due caperini che gli danno quel tocco, grazie a che ci vuole. Sì, a due caperini e qualche cipollina di quelle sottacitti. Quelle bianche belle. Già va bene, Lu, non è così? Lui già si abbuffa, non è come noi, no? Mangiamo poco. Grazie. E chi? La specialità di Graziano è la cucina, mannaggia. Graziano già si appenta vero. Un piatto lo devi fare, bello, bello condito e anche saporito. Più che bello condito, bello saporito. Nei ristoranti non farti i gusti. Ti dà il gusto proprio di mangiarlo quando è bello saporito. Cappa cappa. Allora sai questa trippa che ci ho fatto rimanere a sera? Oggi era ancora più buona, Luca. A chi era basata? Per forza, è normale, le cose sempre riposate sono le migliori. Tipo, faccio un esempio, fai una torta, quando è calda non è buona, ma l'indomani, guarda, è una bontà. Poi passa un altro giorno ancora, è ancora più buona. Grazie. La calda è sconsigliata a mangiarla la torta, perché va da mal di pancia, c'è anche quello. Quando è fredda è buona, sì, perché senti proprio bene il suo sapore. Capito. Grazie. Ti riprendi, Giuse? Stavo dicendo, grazie, ma già era piccantina la trippa? Sì, l'ho molto, già non ne posso mangiare un roba piccante. Il giusto. La morte sua è mila cosa, il piccantino nella trippa. Mamma mia, quanto è buona. Ma questo mese me l'ho fatta due volte. Ieri all'inizio del mese l'avevo fatta, anche la prima settimana. Buona vino, buona proprio qua, un bel giù. Cappa cappa, va bene. E a te, Lu, ti piace la trippa? Mi è mancato di nuovo. Dicevo a Luca, la trippa ti piace? Sì, buona, buona. Piccantina, sì. Cazzo, buona retta e bella piccante, Milu. Cazzo, attacchi a mangiare. Io non la mangio, manco con la forchetta, direttamente col pane la mangio. È buonissima, Giuseppe, buona, buona, buona. A me piace un sacco. E infatti, vabbè, adesso cerco di evitare perché all'inizio, al nuovo anno, devo fare un intervento e per il momento la evito, poi me la faccio fare, ma verso febbraio, marzo, vediamo. Devo chiedere all'ospedale se posso. Cappa cappa, ma niente di serio comunque, dai. L'importante è tirare avanti, no? Calcoli la cistifelia, niente di serio. E vabbè, sempre un intervento e mannaggia, già se ne poteva fare a meno, cavolo. Purtroppo, se vuoi stare bene lo devi fare. È una cosa che devo affrontare da prima a prima, questa avrei già... sarei stato tranquillo e sereno, invece me l'hanno spostato, prima volta l'ho spostato io, perché ho avuto dei problemi con mia madre, non c'era qualcuno che la portava a fare delle visite. Comunque il 12 sicuro ci vado, giovedì capita mi sa che il 12, mi ricoprono e poi... No, di giovedì, o di sabato, forse di sabato, e lunedì mi operano. E poi insomma martedì sarò a casa, mercoledì, boh. KK, ma le cliniche te lo fanno, Lu? Sì, all'ospedale civile. Ah, KK, all'ospedale civile, ho capito. Yes, avanti, grazie. Ehi, adesso non è più come prima, adesso con le tecnologie state in prima. Ah, vedi, per mettere i cristallini a Di Romasano, a ridurre i trattini se andano a casa. No, mai così, grazie. Oramai con le tecniche che hanno è mini invasiva. Oramai è tutto canto a laser, a cosa, non è più come prima, no? Oh, prima era differente, non c'erano tutte queste tecnologie che ci sono oggi avanzate. E poi costa a me un malato a rimanere in ospedale. Quando c'ero io lì al policlinico ricoverato per gli occhi, pagavano 500.000 lire al giorno per me. Già lo so, grazie. Lo so quanto costa una degenza al giorno in ospedale. Costa un pacco di soldi. Infatti, io Balducci sono rimasto in cura tra ospedale e casa un anno per l'occhio destro e un anno per l'occhio sinistro. In cura un anno ba uno e un anno ba l'altro. A parte che all'ospedale mi ha giocato 3 mesi ba luce e 3 mesi ba l'altro luce. E poi in cura a casa ogni anno, quasi tutti i giorni dovevo salire là a farmi laser, controllare, un casino. Non è più, non era come adesso, erano i primi cristallini che c'erano quando li hanno impiantati a me. Infatti ho pagato io, ho aggiunto 500 per un occhio e 500 per l'altro, perché l'altro non te li metteva tutti i soldi. Allora... Lo so, grazie. Adesso in un paio d'ore sei a casa. Adesso è così, ma quando l'hanno fatto a me va via 23 anni io. Mi sono parati rigattarati dagli sforzi, dal calore, perché lavoravo nel forno a fondere l'alluminio, il calore, lo sforzo, mi hanno fatto parare i gattarazzi a 23 anni, che in genere ne farà la gente anziana. Infatti. Beh, Lu, riprendi tu che io mi assento, che mi stanno chiamando dalla cucina. Ci sentiamo dopo. Ehi, a dopo, Giuseppe, ciao. Ah, solo un attimino, più grazie, aspetta. Ehi, va bene, Giuseppe, ok, a dopo, se coincide. Cosa? Mi... Stai chiudendo. Cosa? Ho detto, stai chiudendo. Oh, grazie. No, ancora è presto. Sono risetti, ma 25. No, sto guardando su Italia 1, c'è Sassari, aspetta. Sì, guarda. Luca! Allù! A Luca! Stai uscendo! Ciao Maria! Mica ti ho conosciuto! Luca! Manicomio! Cosa stai facendo? Ehi! Attento, dottore! Dottore! Macchigio, dormito sì! Pensami dare un letto! Domani mia ti ho mandato un invito nel cellulare, guardalo, su WhatsApp! Luca, mia ti ho mandato anche a te un invito! Guarda il WhatsApp! Ma c'è l'uomo di Pisa? Luca! Grazie! Beh, è arrivato anche il messaggio che ti ho mandato. Sì, ma sono tante donne quelle, capito? Sì, non ci vieni. Ci visto, Mari, mi mandi. Vai. Ok, dai, dov'è, grazie? Hai visto? No, ma può venire anche lei, mi si aggrega. E cosa gli fa, zia? Da me io non c'è in chibi, un'etta, no? No, lei chiacchiera con qualcuno e tu chiacchieri con qualcun'altra. C'è l'imbarazzo della scelta. No. Questa è imbarazza. E poi imbarazza mi invece in una marrazza. Imbarazzo della scelta. Oh, sempre che non scelgono loro, Io avrei portato quel finocchio di Fabrizio, quello della Tadolce, hai capito? Quel finocchio lì avrei portato. Ha riportato? Avrei portato a Fabrizio, no, Fabrizio Chirigato, Fabrizio Mascherato. E beh? A lui avrei portato. Portato? E a lui avrei portato con quelle donne, a lui anche, invitalo pure a lui. No, ma con gli altri no. Ma si manda un messaggio, aspetta. Ehi, mandaglielo. Ti manda da Giulio, adesso ci rifà gli occhi. Come? Ehi, io. Luca Flipper, non lo so se gliel'ho mandato quell'invito. Adesso guardo. Chiaro, stiamo andando con i E cosa sei cubinelli? Aspetta che mi soffio il naso, che mi l'hai imballato. Cosa l'hai imballato? Non si soffio. Ehi, mi stavo soffiando il naso, che mi ha preso quella bustina di Plumicini e mi fa distorrudà. Tu qualche ora sempre buffelli, per carità, meno male era l'ultima bustina quella. Che cosa ne so, che a me mi va di gusci, mi dà fastidio e me ne va a Bari e va a Bari. E infatti, ehi, aspetta che leggo questo messaggio di Marino. Marino era, gli ho detto accendere il PMR. Al telefonino mi ha mandato. Mi ha mandato un messaggio nel telefonino. Ti avrei invitato anche a te, Macchi, qua, a questo invito. Ma non c'ho il tuo numero di telefono per mandartelo su WhatsApp. Una festa, tutte femmine ci sono. E mi hanno invitato. Un vagone ce n'è. Sì, tutte femminucce, tutte una più bella dell'altra, mi senti, aspetta. Beh, tutte scendendo dal pullman, sai. Beh, anni vedi, un po' grigi. Mi sarà riparato una cinquantina, ne sono ancora a Varelli. Tutte belle, proprio belle, mi docu. Ma breca, carruzza breca, sode, tutti che la palla. Aspetta, sto organizzando per Capodanno, vuoi venire? Io mi sono disimpegnato di tutto, sono in prima lista. Il capo che fa così? Il capo treno. E a Gio Maria cosa hai fatto? Gio Maria è in coda, non va mai. E a Gio Maria non si fa niente, qualcuno è in trasferta. Ora è lo stesso, l'ho chiamato. L'ho acceso presto anche stasera, ero con Luca, mi pare che ne erano 4 e mezzo. Luca, si sta fa organizzando anche lui per venire alla festa. Ah, ok, no, che Luca, grande organizzazione, piazza la Vettura, così è. No, il posto ancora non è deciso. No, piazza la Vettura poi, ci sono i gradini per tutta la gente. Bisogna vedere adesso dove decidono. Ecco, dove decidono la gente. Gente di Fiumara. Vediamo se Marino è entrato in PNR. Marino. Gli ha mandato un messaggio di entrare sul PMR. Buh. Stamattina, ma ci sentiamo prima, ci sentiamo stamattina. Oh, ma ci sarà dimenticato, buh! Anche da fare lì a subito di Bau, così che trova una ma non mi ha dato risposta, vengo subito, io no, non mi ha dato risposta. Ma ti rispondo adesso. Buonasera a tutti. Domani notte, dopo mezzanotte, da Iocco, grazie, da Iocco col Perizoma, avanti. E da qui avete fatto. Sto guardando se mi avevi sentito che ti avevo mandato il messaggio. Ehi, da Iocco, andiamo tutti da Iocco. Dopo mezzanotte, prima notte, mezzanotte. Ehi, amici, è entrato Bacchisio anche, lo senti? Lo sentivo poc'anzi che ero un po' in ascolto, ma stavo facendo cose. Avanti la chiesa con la buonasera. Buonasera Marino, ben ascoltato. Vedi che stamattina ti facevi sentire, quindi voi invece nulla. Sì, fammi dello spagnolo. Sì, però beh. Oh, ma chi, poc'anzi ti sentivo meglio, ma adesso sei un po' a livello QRM, molto QRM. Avanti lo spagnolitos. E aspetta che attacco l'antenna allora, sono con Gommino. Aspetta che cambio. E anche Luca, ben avanti. Luca si è perso. Avanti Marino. E a Bacchisio non l'ascolto, non l'ascolto. Poc'anzi lo sentivo, ma adesso non l'ascolto. Sono molto QRM. Boh, non so. O si è spostato, non lo so. Avanti Bacchi. Cambiando antenna, Mari. Cambia antenna. Io sento bene a te, ho sentito l'altro, poc'anzi, fortissimo. Ma lui poc'anzi lo sentivo forte, adesso negativo, adesso proprio a livello, boh, QRM. Sì, la sta cambiando l'antenna, perché era col gommino. Ah, è ok, dai. Aspettiamo 2 minuti. Eia. E allora, cosa hai combinato? Niente oggi? Nulla, tutto giorno a casa, riposo, mi stavo riposando oggi, grazie. Già ci vuole, da. Un po' di riposo già ci vuole anche quello. Adesso mi stavo preparando la roba per domani mattina, poi vediamo. Adesso, ho il Francesco, ho sentito a voi, tutto qua. Vediamo se va chiuso, ha cambiato antenna. Avanti, va chi? Eia! Ehi Luca, è entrato Marino anche. Ciao Marino, mi senti? No, negativo, non ascolto neanche a Luca. L'ascolto, se c'è dell'ede, ma è disturbato. Ciao Luca, se mi stai ascoltando, ma io non ti ascolto. Tutto qui, avanti, grazie. Luca, come me non ti ascolta Marino? Oh Luca, ma è caduto sì. Adesso non lo sento neanche io a Luca. Eia, esci a vedere, Bacchisio, ho finito a... Bacchisio si è liato con l'antenna. Guarda adesso, con Graziano, se mi ascolti. Sì, mi ascolto. Ti ascolto. Sì. Avanti, Bacchisio, ti ascolto, dai. Eia, ciao Luca, buona serata. Adesso mi ascolti, Marino. Certamente, forte e chiaro, avanti. Bacchisio, ti ha detto avanti, ti ascolta. Se vado avanti mi sbatto la faccia alla cosa al mobile, non ci posso andare avanti, devo stare fermo. Ma vai, non mi ascolti bene. Ehi, ti ascolto bene. Sto usando la sorella dell'antenna tua. Solo che ce l'hai dentro a casa, così è. No, l'antennino che ti ho dato io, la sorella ce l'ho io. E sto andando con quella lì. sta arrivando forte, sta arrivando qua, una bella modazione, una bella chiara. Io l'ho messa in varichina stamattina con l'antenna, capito, con la chiara, per uscire chiaro. Ehi, a me bene mi senti, Marino? Ci siamo sottomodulati, io la sto bene da chi, arriva forte qua. Anche tu già ti cupio bene, là. La radio un po' cupa, c'hai, ma va bene lo stesso. E cupa la compagnia, c'ho il naso intasato. C'ho i polpi, moscaldini e sardine nel naso, e non mi fanno parlare bene, tutto qua. Avanti. Ehi, a chi gli vivi tu, mezzo bugno, così ti fate un naso aquilino. E allora vedi che funziona bene. Capito mi hai, un bello bugno, bobo, avanti da chi? Sì, giriamo per Luca, Luca avanti. Ciao Bacchi, mi ascolti, sì. Come non ti ascolto? Benissimo, limpio e chiaro. Marino, Marino, ma Luca non lo senti? Io non l'ascolto, se accende il LED è una modulazione zero, sento leggermente qua QRM, ma lui non l'ascolto, la sua non l'ascoltava, oggi nulla. Eppure sta facendo abbastanza forte. Luca, sentito là. Io lo ascolto bene, non bene bene, un po' frusciato, là. Però lo sento. Marino, lui ti ascolta, già ti sente un po' frusciato, ma ti sente lui. Strano che tu non lo occupi, nulla lo sì. Attivo, c'è il LED che si accende, il LED, ma un leggermento di un po' di cose, di QRM, mentre stiamo durando, ma voce nulla. Devi sostarsi leggermente. Sentito, Luca già ti sente però a te, ma... Intesa, Luca, prova a sostarsi. Cazzo, sono dalla parte tua, di fronte a te. Non ce l'avevi l'antennino esterno tu, di quelli autocostruiti? Ne uso. Luca. Ho detto che non ne ho antenne esterne, non ne uso. Ma non esterna, te la buona all'interno, però più grande sta, più grande del gommino. Quelle piccolari. Mi abbassa un antennino piccolo, lo appoggi sulla ringhiera, poi lo ritiri quando finisce il modulare. Oppure lo appoggi dentro casa, sul tavolo, qualche buona sorte. Rende più del gommino. E infatti, te l'autocostruisci tu, Luca. Guarda su internet. Tanto ci hai spiegato come farla e te la farebbe da Garriga. Perché Marino ti arriva bene, grazie. Sì, mi arriva benissimo. Sì, già lo sento bene. Poi la voce, la tonalità e la voce sua così. Però già esce bene. Arriva bene qua, va. Sto usando un antennino piccolino, non è sto usando un'antenna grande, sto usando un antennino piccolo. Io ce l'avevo una che mi aveva fatto, Luca me l'aveva fatta. Gli avevo dato anche quella io a Luca Manicomio, poi trattavo lui quella che l'avevo dato io, se ce l'ha ancora. Sì, bisogna vedere se non l'ha distrutta, capito. Luca, che fine ha fatto l'antenna da Graziano? Distrutta l'hai. Oh, ce l'ho, è a casa, ce l'ho. Perché non te la accendi qua, quella? Stata a casa tua, vai l'antenna manna, buh. Per casa tua già va bene, o te ne costruisci una tu. Non è disoccupato di che cosi. La copia da quella che ti ho dato io, sai, vivo. Adesso vediamo, là. Però guardi su internet, mica c'è mi tutto spiegato come fartela, come si fa e come non si fa. Guardi lì e vedi, no? Poi se non è bella vedere cosa ti napputi, riportate che funziona bene. No, no, così è, Bacchi. Chiaro, grazie, è così. Io questa che ho dato a Marino l'ho costruita io. Quella che sto usando io adesso l'ho costruita io. Dunque, vediamo un po' che funzionano. Avanti, Mari. funziona bene pure anche, oh, grazie. Vedi, questa è la gemella e quella del Bacchiso, funziona benissimo e non è l'ho messa in alto, figurati. Sta sollevando poco, però si riuscite ancora più forte. Ma già va bene così, dai. Avanti, grazie. Ma già stai uscendo bene, l'importante è che funzioni. Si da voi non è ben da vedere cosa ti ne ha tutti, se un'antenna. Basta che funzioni bene. E va bene. Eia. Va bene, riprendi Luca, non riprende. Vediamo se sarà Tore. Tore, ci sei? Tore senza motore. Non c'è proprio, Oggi no, niente, sarà a passeggio con Rugani. Riprendi il macchino. Oh, che sta preparando per Capodanno, grazie, sta preparando per Capodanno. Sta facendo il digiuno, perché a Capodanno devi mangiare il bifo e un bel. E allora è in penitenza adesso, e non può rispondere, se no gli viene la fame. Grazie. E a voi a domani il tempo a preparare, ma vero Mari? Ma guarda, grazie, sinceramente a me proprio me ne basta la fantasia. Per me è ogni giorno normale, guarda, per me è un giorno normale. che ci sia da mangiare bene, poi la salute, e per me è sempre Natale e Capodanno, vero Bacchi? Ma io dirò, è tutto uguale, tu devi pensare che ho perso i giorni, non so quando è sabato, o domenica, oggi io pensavo che era un giorno fregato, invece volete dice, no, oggi è domenica, assai piacere, io conto, ho perso il giro dei conti delle giorni, una volta che vai in pensione, che sei sempre impegnato, non riesci a recuperare più. Avanti, grazie. Quello è vero, è capitato anche a me, poi a perdere l'orientamento di radì, lo sappia se era sabato o venerdì o chissà che di. E infatti, la giudica mia moglie, ma oggi cos'è? E mi l'ha detto, andiamo bene. Anche io ogni tanto l'orientamento l'ho perso, Se non stai sempre con i giornali fra le mani, oppure vedere un po', perdi il filo. Avanti, Mari. Così, e boh. Grazie, c'è quell'amico che sta mandando i messaggi per domani sera. Lì. Mi ha detto, se non vado, me ne manda 4 a casa. Tu quanto ne vuoi a casa tua? Cosa? Non l'ho capito bene. Sta mandando i messaggi quella lì, e beh, dimmi. L'amico mio mi sta mandando dei messaggi, a che ora andavo a trovarlo domani notte. E se in casa non andavo io, me ne mandava 4 a casa. Tu quanto ne vuoi, 3 o 4? Sempre meglio 4 che 3, dai. Una in più non fa male. Ok, dopo le rispondo, dai. Qual è questo? È un video vero quello, sono arrivate stasera, sono arrivate. E stavo organizzando per domani notte, tutto qua. E una più in gamba dell'altra. Avanti. Ho visto, contattato, fresche, proprio appena uscite. Appena uscite dall'uovo, avanti Bacchi. Sì, è uscita da dentro un sacco della Befana. Da dentro un sacco della Befana, grazie a suoi usciti. Ma se i Befani erano ricati giusti così, mi l'aveva caricati tutti, Bacchi. Un pullman ne sono arrivati. Con la scoppa o senza scoppa? La scoppa gliela porto io, gliela do la scoppa. Allora, lo scoppone c'è. Allora andò a vedere, dai. Bacchi, l'ho capito. Che non te ne posso mandare. Ma Marino ce l'ha il tuo numero, tu ce l'hai WhatsApp? Sì, io grazie che ce l'ho. Del Marino ce l'ha il mio numero. Allora, Marino, mandale a Bacchiglio, che si dà sul morale. Adesso te le mando, Bacchì, e dopo mi dà la risposta. Adesso vado a vederlo pure. Luca, finito hai. Ehi, ha finito. Sì, ma niente. No, qui c'ho fame qua. Ma io non ne ho fame. Non è la verità. Aspetta che mi chiamano, riprendi tu, Mari. Adesso riprendo io. Sta arrivando, ma chi? Sta arrivando, 2 minuti arrivo da te. Anzi, mi ha detto di... Ah, è arrivato, dai. È arrivato, ma chi? Non è arrivato ancora. Non c'è un problema. Io te l'ho mandato, ma chi? Non è arrivato. Adesso guardo. Perché è già arrivato, lo vedo qui, è arrivato. Grazie. Sì, è arrivato lì. E adesso controlla, dai, così anche lui organizza. Allora. Poi devo andare a Torre, ma Torre non ci viene intanto. Oh, Torre deve bucciare un cane ogni ora, dunque non vi vedi. Ogni ora, basta lì un cane e vedi, a salire voi. Ma adesso non lo vuole lavare un cane, le altro. Allora, adesso che finisce un cane, regga. Cos'è, maschio o femmina? Mi pare che sono maschio. Maschio, andate, dai, state lì, sono femmine, ora di una fusti. Quindi fate di tutto, fate intanto. Allora, mi basta pure un cane. Aveva la fame pure altro. Sì, ma che? Allora, si chiamava Chisio, è con consulente, boh. Ma Gio Maria non è entrato, no? No, ma te le immagini tu solo, soletto tutta quelle lì, eh? Prova a immaginarti, cosa ne esce fuori? Oh boh, che cosa bella sarà, mi faranno una beffa, mi faranno. Sì, ma che, Allora, sto già immaginando. Tu quando sono in greppa, sono tremende. E non dispettano nulla, non guardano niente. Poi non si vergognano, anzi, a chi pide di più, a è più brava. E allora fanno le gare, fanno, capito? Allora, fanno come noi maschietti, no? Quando siamo in greppa. Io. E beh, ma chi? Non riesco a trovarlo. Mi è sfuggito, non riesco più a trovarlo. Poi pazienza che già lo trovi. Già lo trovi. Avanti, grazie. Capita, non riesci a trovarlo. Ma stai scherzando? Ti dovrebbe uscire subito. Così è. Marino, Tore oggi lo senti giù. Neanche stamattina, l'ho acceso stamattina al PMR qua. Non vedrà un'anima. Non vedrà nessuno, boh. Tutti in giro, tutti a passeggio. No, io ero a casa, sinceramente. Ero solo soletto, che mia moglie con la mamma col bambino è andato a Oristano, che c'era la partita contro Cagliari di Oristano, appunto. Sono appena arrivati adesso e ha vinto, meglio così. La Feroce Oristano e Cagliari. E mi ha chiamato un amico qua vicino, mi si è avvicinato, era fino alla una, poi sono venuto a casa, ho pranzato e ciccia. E poi ero sulle con la televisione, tutto qua. E beh, ma chi? Un attimino che mi alzo e mi prendo un bicchiere d'acqua, un attimo. Sono entrato, e beh, ma chi? No, l'ho perso, non riesco a trovarlo più. Ti ho visto un pezzo, poi mi sono distratto e l'ho perso. Ma te lo rimando? È arrivato. Un pezzo l'ho visto. Allora te lo rimando nuovamente, dai. A un pezzo l'ho visto, Mari. E qui ho visto che ha aperto. Possibile l'ho visto a metà, è possibile. Lasciami lì. Allora, stanno scendendo dal pullman, dai. Sì, stanno scendendo dal pullman, non è vero adesso. Un po' di perfame, non è vero, sì. Cos'è? Ma chi? Cosa ti sembra? Insomma, grazie. C'è roba buona. Sto organizzando per Capodanno. E roba fredda? Sono tutte femmine di prima qualità, Primo pelo, tutta roba fresca di giornata. Fresche. Sì, roba fresca. A me piace roba santia. No, guarda bene, tossa. C'è roba dottata, dai. Sì, non è un grande intenditore, no, Bacchiglio. Mi sa che è vero, Mari? Bacchigio sta vecchiando, però non ti devi fidare, hai capito, ragazzi? Bacchigio zitto zitto, ma lui guarda, poi colpisce. A me mi sono questa qui, graziamo. È roba da pochi. Bisogna fare tipo la mosca Zemmi. Io faccio il moscone. Sono dai butti dolci, no? Tu sei buon gustaio, sì, grazie. Manco una nel libero. Poi vediamo. Dove stai organizzando, grazie? Anche tu ci sei, l'organizzatore. Sì, anche Uova, com'è Mari? Da Iocco, mi ha scritto messaggio, adesso al Luigi. Da Iocco. Sentito, ci vediamo avanti, ne sono la piccola, è un collega che usa la stratrice. Dunque, ha tutto organizzato, pronto per domani notte. Sì, poi ti rimontando il rumi. No, il pezzo lo uso io, non hai capito? E tu, Bacchia, ce li hai rosse? Rosse e blu. No, lì c'è milanista, non ci è mai. Torresino lui è, Torresino. Torresino, no, lì vogliono rosso. Rosso fuoco, rosso melograno. Andate. Ehi, vedi, Luca, ma caduto sì. Ah, oh, sono caduto, mi sto cercando le mutande rosse per domani. Io non accendo, va bene. Sì, non li vernicente, sì, non la gatti, non la piglio una bomboletta del ruglio. Che teso hai, Bacchi? Via, e allora non ho bisogno di queste mutande, di spostatamente sopra, via. Ehi, domani tutti rossi. Scusa, devi venire già forse. Avanti, grazie. Vendo molta roba di vernice però, Un po' di vernice domani vendimi. Allora, vediamo se c'è Tore. Tore, ci sei? Tore è timido, neanche risponde. No, è diventato Gullareccioni. E allora non può anche venire domani, no? Grazie. Ah, cuffo! Che ci facendo c'è? Chi è? Avanti. Non ti ho sentito. Che ci facendo? Marina, non ti sento. Che è? Luca, rialzati. Luca è caduto. Mari, è bene. Tutto a posto, grazie. Tutto a posto, già organizzato. Io voglio pure le bretelle, mi. Una cazzo di diagra, sei svegliato, sì. Eia! Pronto, sì! Come va giù, chissà cattoletta, il vero d'oro disegnato! Chi cazzo non può mutare un asso! Andavè, Luca, avanti! Ah! Pronto, sì, a fascista! Eia! Allora, ormai me la amiamo, ci appartiamo, aiuto! Aiuto! Un momento, lo sei da un momentino a Luca, boh? Ciao, Mari, ciao! Marino, mi ascolti? Bene, in questo passaggio sei arrivato pulito. Perché mi sono messo proprio di fronte alla fusibile. Dai, ciao Giomari. Ciao, buonasera anche a Marino. Buonasera Giomari, ben entrato. Luca, mi sta arrivando, come sta arrivando? Graziano e Coso, e Bacchisio. Fortissimo, qui a ottava. Bene, avanti Bacchisio. Io salutiamo Giomaria, buonasera Giomaria, ben entrato. Adesso è migliorato Luca, io l'ascoltavo anche poco fa, però adesso è proprio una bomba. Avanti Giomaria. Oh, grazie. Ciao Giomaria, ben sentito. Guarda che ti ho mandato un invito Giomaria su WhatsApp. Ah, volevo chiedere una cosa a Marino, ma non qua. Sarà possibile avere il suo numero? Chi? Ho detto che devo chiedere una cosa a Marino, però sarà possibile avere il suo numero? E qui l'apparecchio no, fatto mandare o da Bacchisio su WhatsApp oppure da Graziano, che ce l'ha. Non c'è problema, mandamelo Graziano, il numero di Bacchisio, di Marino, che devo chiedere una cosa. Aspetta che guardo, riprendi Giammaria. Ah, Giammaria non ascolto, Giammaria. Giammaria è sparito. Dovesse essere andato a fare qualche cosa. se magari sono chiamato dalla signora, non so. Bene, mi sta arrivando a fondo scala adesso, Luca, fondo scala, benissimo, ottima modulazione, bella pulita. Luca si è spostato, grazie, sta facendo una commissione, avanti, Bacchì, stasera in campagna ieri, no? Sì, ero in campagna stamattina, anche stasera sono sceso un po', un'oretta sono stato stasera, poi mi sono salito, non si stava tanto bene, c'era un po' di vento. Dovevo passare noi stamattina, poi mi ha chiamato questo amico e va a fare a vederlo, ho detto campagna mia e un'oretta mi sono venuto a casa sua, capito? Un'oretta e fa una cosa all'altra, poi si è fatta la una e me ne sono andato a casa. Che oggi ero solo soletto, che mia moglie era Olistano, che c'era mio nipote che giocava a pallone, contro il Cagliari e Olistano. E sono entrati una mezz'oretta fa, tutto qua. Poi stasera fa una cosa all'altra, guarda la televisione, boh, mi è passata l'ora così, volando. Adesso vediamo domani, se è il caso esco prima, ti chiamo e ci beviamo qualcosa dell'altro in quel cotillac, avanti. Benissimo, va benissimo, ci vediamo lì allora. Fammi uno squillo e così ti tranquilla la roba. Va benissimo, va lì. Avanti, grazie. E Cristiano sta cercando il mio numero forse. Avanti, Luca. Sì, sta aspettando che mandi il numero. Ah, grazie. Nella rubrica. Bene, dove sei? Su a casa tua o giù alla Ferrosi sei adesso? Però non chiedo il numero. Vai. Bene, tratto, Torricino, avanti. Ti posso mandare un invito per domani notte, grazie. Ottore, scusa. Ottore. Ma a me che disegna a darmi l'invito? Ci vedo domani notte. Che luogo? Ah, ci sono io, Graziano, viene anche a Bacchisio. Dopo ti mando l'invito su WhatsApp, dai. E ci vediamo d'accordo. Dopo la mezzanotte però, Già lo sa che cosa c'ho anche in più. Già lo so, sto scherzando, già lo so. Purtroppo è un impegno lo so. Non dico nulla. Avanti, Bacchisio, pastore. Ciao, dottore, buonasera. Perché sei arrivato così basso, tu? Come ti è successo? Aspetta un attimo. Che due, la sono uno. Ma il messaggio l'hai mandato con Maria. È arrivato, sì. Guarda a vedere, adesso passo, adesso è migliorato un pochino, ma non è come gli altri giorni. Non lo so, no. Cosa è? Boh, a volte c'è bene, a volte c'è basso. Io sto Luca, ti è arrivato. Sta abbastanza, sta arrivando bene da me. Caffè, Luca. Ehi, adesso mando un messaggio, aspetta. Luca, mica te l'ho mandato. Caffè. Assolutamente, mi Luca, lo sai, sì. Che c'ho la segretaria, c'ho. Ehi, ciao, Tore, tu tari oggi già venni di dove eri in Africa? Cuba! A Cuba io, diventano a Cuba, no a Cuba, che diventano a Cuba. Mi sta solo a Giamenni di un cagnolino eri. No, sono riuscito a trovare un apparente. Alle 5 sono uscito da qua a trovare un apparente, adesso che rientrava. Vabbè. No, ti ho fatto qualche chiamata per vedere, ma ho visto non rispondevi. La giubilata sarà in girella. Luca ti è arrivato? Che bello di Maria! Dimmi tutto! È arrivato a te quell'invito che ti ho mandato, Gian Mario. Arriva adesso, l'ho detto perché non c'ero, l'ho lasciato caricando, sono rientrato adesso, ho guardato e ho visto che c'era quella cosa tua, vai. L'hai visto? Ti stanno invitando, se sei disponibile. Perché che mi stai invitando? Quelle lì. Non ho capito. Quelle che ti ho mandato. Tu lo stai organizzando. Io e qualche un altro siamo in società, là, un'organizzazione. Dove? E allora? Mio marino già lo sa, Mari diglielo tu. Ah, Marino. Marino sei forzato. Caggiù due, ho fatto i primi assaggi. A so fare, che a lui fa bene. Ore, e allora, dici. Come si dica? Dici. Dici. Ciao Marie, buonasera, cosa vuoi che dica io? Parolacci. Buonasera a te, non sapevo che c'eri anche tu, perché sono rientrato adesso e ogni tanto mi sono spogliato a dire la verità, dai, già rientro dopo. Sì, anche io come quando sono entrato, faccio che in treno appena. Certo. Allora, signor Bacchi. Sì, adore, sto rientrando, sono Cirella. Grazie, allora, mi ha dato io l'invito. No, ero vicino a casa tua, mi da un apparente lì, vicino a casa tua. Vicino a casa io, non ho capito. Hai parenti vicino a casa mia, ma nella stessa via. No, attaccata al semaforo, si può dire. Ah, ho capito. Via Massaia, quella lì è. Quella è via Massaia. Sì, lì, di fronte ai giardini proprio, là. Vabbè. Sono andato a fargli visita, che non ce l'avevano da parecchio e siamo andati lì. Ah. Graziano vuol dire Barolacci, cosa gli devo dire? Sei proprio Polacci. Vabbè, sì, mio, ma sono promodulato. Ma cosa? Abita nel palazzo di fronte al semaforo, così è. Ah, boh. Manda questo invito a Graziano a Tore. Mandaglielo tu, non ho io il numero suo, tu ce l'hai, mandaglielo a Tore a vedere se si organizza pure lui. Ma quello io non ce l'ho, dello staff non ce l'ho il numero, capito? C'è un numero vecchio di Tore. Io non ero lo stesso, non mi ha dato l'altra volta che l'ha aiuta ai nocchi. Ma forse ha detto, se dopo un numero questo mi manda le parolacce. Allora è venuto la fa. Dimmi dottore, lo sai. Poi faccio un cane, faccio, da buttarmi appresso. Ehi tu, ci perde tutti quei biscottine. Mi dai un cane, tu sì. Marino, fuggite, Marino. Eccoci qua. Andato ti sei, Gianmarino. Adesso tutto bello fresco, ragazzi, io ho chiuso, ce la sentiamo domani, là, che devo far cosa. Salutori circolari a tutti, a domani, ciao. Ciao a tutti, buona cena, buonanotte, ciao. Ciao, grazie, buona serata, ciao anche a Luca, buona serata anche a te. A domani, se tutto coincide, avanti Gianmarino. Aspetta, babbo. Doggoso. No, se ne comprende nulla dai nocchi. Aspetta un attimo, grazie! Aspetta, sono passati i cioccolatini. Sì, domani dai! Adesso non ho voglia! Ciao a tutti! Ma te boh, chissà cosa è andata da capo a mangiare, vabbè! Ma fammi vai, non risponde, Bacchi! Ciao, grazie ancora, buonasera! E a mangiare andiamo, Graziano, con questo. E fra poco... Ha già seguito un muro, poco io. Fermolo io. Avanti, Tore. Catta, Allora, signor Bacchi, come andiamo? Ti ho preso che se prendendo. Piano, Tore. Stamattina ho visto il tuo suocero. Da Antonino. Oh, sceso lì, ci volevo scendere io stamattina da te, ma invece da voi mi si è fatto daggio. Sono uscito con Ruggani e ne sono durato a mezzodì e mezzo quasi. Io sono passato a mezzodì e forse a mezzogiorno e qualcosa. Da Antonino c'era il tuo suocero, infatti mi sono cercato un poco e poi mi sono passato. Io c'era anni venne, fa vedere. La giurenda di Irani, tutti e due. Vuol dire che è andata a fare una passeggiata, ogni tanto. Un altro riprendo e vi saluto, ciao Bacchi, mi hai sentito? Se concede ci vediamo domani mattina, già, ti faccio uno squillo. Ciao Tore, sono in casa, anche la signora. Ciao Luca, se mi stai ascoltando. Ciao anche a Gio Maria, ciao anche a Graziano, buona cena e ok per domani sera dopo la mezzanotte, magari passo io, ti prendo e andiamo. Bene, quello ti permette, ho anche tu gli ascoltoni e a domani. Ciao, avanti, va chi? Io, ciao Marino, salutissimi, saluto in casa, a domani, consentito concidere. Buonasera ancora. E io che ho il microfono fra le mani, vi saluto, me ne passo in quello lì perché devo andare a prendere le medicine. Ok, ciao Gianmarie, buona serata, saluto in casa, ciao Tore, anche per te la stessa cosa, anche per Luca con la buona serata da Battisio. Battisio passa in QRT, ascolta Pinalino e poi chiudo. Riprendi Gianmarie. Ok, d'accordo. Ciao Marie, ci sentiamo, va, a domani. Se Dio vuole. Ciao Bacchi, buon proseguimento, sono Tore in casa e ci sentiamo. Tore a te. Ok, ciao Marino. Ci sentiamo alle prossime, magari domani, per darci gli auguri. E ci sentiamo, ok, ciao Bacchigio, a domani, ok. Ti prendi Giomari. Un attimo Giomari, che ho scusa, ti saluto anche per te, mi è scappato le mente, sono tutto in casa Giomari. Ci sentiamo domani se concili, ok, avanti Giomari, a domani. Non ho capito Maria, scusa, ripeti. No, non ti ho salutato, ti chiedo scusa Giomari, ok. Ti saluto adesso, saluto in casa e ci sentiamo domani se concili, ok, avanti Giomari. Ok, d'accordo Mari, dai, ricambiato tutto, vai. Già ci troviamo senz'altro domani, dai. Buon proseguimento, ciao. Ciao, e allora? Sì, sono andato a fare visita dei parenti ed era appena entrato 5 minuti prima di te. Bene, io ero in una messa, eravamo e sono rientrato adesso, sono rientrato. Così che stavo appena entrando, mi sono appena spogliato, impressa, faccio senz'altro visuendi e fa vedendo, e così ci ha giovato in tempo, dai. Sarà che sono, ero 3D senza entrarvi io, anche non faccio a tempo, va benissimo, dai, meno che mi sociamente Gio Marì, ci sentiamo alle prossime, a domani. Magari. Andate. D'accordo, dottore. Non presi mente, allora dai, siete a domani. Sarò tornato in casa. Dai, domani sera ci faremo gli auguri, ok? Ciao, dottore. Ok, ciao, Gio Marì. Non c'è altro nessuno, chiedo anch'io, allora, dai.